Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il miglior venditore dell'anno. Grazie, Nicolò. Aiuta papà. Cambiali scoperchianti. Se tu quest'anno mi prendi tutti 10, ti regalo una vacanza da sogno. Dove la porti che non c'è una lira? C'è un supereroe che batte tutti quanti gli altri, sai. Guarda dove andiamo. Vedi che questo è un posto bellissimo. Che impressione vi ha fatto l'ultimo film di Checco Zalone, Sole a Catinelle? Sì, perché qualcuno di voi che mi ascolta l'avrà visto sicuramente. È il film più italiano, è il film italiano più visto in assoluto. Più di ogni altro grande capolavoro, più di ogni altro decantato luogo dell'immaginario. Nessun altro film in Italia è stato visto quanto il film di Checco Zalone, l'ultimo film, Sole a Catinelle. 50 milioni di euro gli incassi, che sono ancora destinati a crescere. Non vi dico nemmeno quali sono i numeri nelle sale cinematografiche. Io l'ho visto domenica sera, nonostante che ormai fosse in programmazione da parecchio tempo, da parecchi giorni, era piena, c'è una fila enorme nel cinema romano. Qual è l'italiano che rappresenta il protagonista di questo film? Perché ha avuto così tanto successo? Ci sono varie chiavi di lettura, naturalmente. È un film che parla di una normale famiglia nell'epoca della crisi. Tutti si rivedono comunque un pezzetto della loro vita quotidiana nel film di Checco Zalone. Ma non può essere soltanto questo. Sono stati fatti un'infinità di film che descrivevano il momento esatto vissuto dagli spettatori di quel film. Pensate ai film sugli anni di piombo, pensate ai film sulle tragedie del nostro paese, pensate ai film sul benessere del nostro paese. Perché in questo momento Zalone è riuscito a trovare la formula segreta, la chiave vincente, la chiave di volta dell'immaginario comune, sicché in un momento di grande crisi per cui la gente ha difficoltà a comprare il pane quotidiano, va comunque a vedere un film. Lo va a vedere e ne esce felice, ne esce confortata, ne esce contento, perlomeno ne esce con qualcosa che è stato piacevole. In cosa si sono immedesimati gli italiani? La storia la riassumo per i pochissimi che non ne hanno mai sentito parlare. Parla di un venditore di aspirapolvere che è bravissimo perché ha venduto tutti gli aspirapolvere ai suoi familiari. E poi improvvisamente sente in maniera profonda, lancinante, la crisi. Vede intorno a sé perdersi tutti i pezzi. Però riesce con inventiva, con alcuni talenti che indubbiamente ha, a risalire la china. Poi c'è un happy end, non ve lo dirò, non voglio fare lo spoiler di questo film, ma in fondo mette d'accordo tutti, è pieno di buoni sentimenti, non c'è assolutamente sesso, non c'è nulla di volgare, c'è un bambino fantastico, insomma piace a tutti, tanto che Renato Brunetto un giorno disse, secondo me o lo aveva visto male o glielo avevano soltanto raccontato, che esprimeva a pieno la filosofia positiva, generosa, anticomunista, moderata e serena di Berlusconi e Forza Italia. Beh, è ridicolo questo. È un film che prende per il culo tutti, prende per il culo i radical chic, prende per il culo la sinistra apparentemente anticonformista ma fortemente collusa con tutti i poteri immaginari possibili, immensa ebra di tutte le ricchezze possibili, ma prende per il culo altrettanto la destra sciacalla e tagliagole, gli arditi della finanza, prende per il culo tutti, eppure piace a tutti. Nessuno si sente preso per il culo in prima persona, tutti vedono soltanto gli altri. Giuseppe Sanzonna, buongiorno. Buongiorno. Hai visto il film di Zalone? Sì, sì, l'ho visto ieri sera. Quindi... Ecco, sai spiegarmi la formula segreta, perché praticamente ha sconfitto tutti i geni della nostra cinematografia, dai più impegnati, dai più celebrati, che ne so, non ti so dire esattamente, i mostri sacri, impallidiscono tutti con un filmetto che in fondo in sé sì, fa sorridere, non è che abbia delle chiavi profondissime di lettura, o semplicemente ha trovato una formula vincente. Guarda, la stavi delineando tu, perché effettivamente questa sorta di Homer Simpson in salsa pugliese, col ventre dilatato, con la calvizie in libertà e col grugno sapientemente scimmiesco, riesce a cogliere una rotazione d'aspetti in cui ciascuno riconosce il proprio spicchio di mondo, cioè appunto c'è chi ride grassamente dei radical chic, chi ride invece della destra becera, appunto degli evasori fiscali, dei pirati finanziari, dei devastatori, dei volgari. Ognuno ci coglie l'aspetto che più gli piace. Di sicuro c'è un grande senso del ritmo e un grande senso del comico musicale, come dice lo stesso Gennaro Nunziante, che è il regista e demiurgo di Luca Medici. Sì, adesso lascia perdere ste pippe, scusami, perché sì. Siamo anche corti, abbiamo poco tempo. Non ce ne frega la struttura, non è il segreto. È ben fatto, è fatto in maniera molto furba, ma tanti film furbi sono stati fatti. Questo ha colpito tutti. 800240024, perché avete guardato, perché avete ammirato, perché siete andati al cinema a vedere Checco Zalone? Bambino, come ti chiami? È un anno che Lorenzo non parla con nessuno. Lorenzo. Perché non vi fermate qui? No, non posso accettare. Gratis? Sì. Ah, certo. Philip, Pino, mi portate un cocktail per cortesia? Tortello di zucca in salsa di pistacchio. È cotta, la puoi scolare. Questo è il venditore di aspirapolvere, per una serie di improbabili e fortunate circostanze, trova nella bellissima villa della signora Hipel Radical Chic, che mangia soltanto vegano, che nemmeno sa delle sue industrie, delle sue aziende, si è affidata a una sorta di pappone amante della madre, che in realtà è uno speculatore, e finirà che con Zalone ad entrare addirittura con il cappuccio in massoneria. Luca, perché è andato a vedere Zalone? Buongiorno innanzitutto, perché avevo voglia di ridere. Zalone lo conosco e ho visto il film che pensavo di vedere, non mi ha stupito né in bene, o meglio, ha risposto a quelle che erano le mie aspettative, però una critica ce l'ho da fare a Zalone, nel senso, il coprotagonista è un bambino di 10 anni, Zalone ha la sua comicità che dal punto di vista dell'espressione la conosciamo tutti. Allora, mettere in bocca un bambino di 10 anni, apro le virgolette, papà hai rotto il cazzo, chiudo le virgolette. E capirà, cosa sarà mai? Ma lei è ridicolo nella sua pruderia. È l'unica battuta di tutto il film, lievemente fuori senso, ma ha un senso profondo. Il padre riconosce il figlio perché dice: babbo mi ha rotto il cazzo, perché era spaventato da un figlio geniale che prendeva tutti i geni, tutti 10 a scuola. Dice: finalmente ti riconosco, sei un ragazzino normale. Ma Sansonna. Dicevo prima, secondo me il figlio, scusami, sei d'accordo, visto che è felice il parallelismo con Homer Simpson, ma anche Peter Griffin, anche American Dad, tutti i padri cialtroni dei cartoni animati per adulti americani che rappresentano la civilizzazione americana della quale noi siamo esito e frutto. Il figlio è Lisa Simpson, è il piccolo genio della famiglia, è la vera coscienza, è l'oracolo della famiglia. Checco Zalone riesce a avere la sua catarsi, la sua riscossa, grazie perché deve far vedere al figlio che lui vale qualcosa. È verissimo, e infatti c'è questa oscillazione da Simpson fra alto e basso continua. Ti ricordi quella battuta quando lui dice davanti alla famiglia di africani: noi occidentali abbiamo fatto tanto per loro, faglielo pesare, no? È straordinario, cioè, è un rovesciamento di senso meraviglioso mescolato al battute. La famiglia africani che può permettersi di andare in vacanza e il figlio di Zalone non può permettersi, lo prendo, dice: beh, lo portiamo noi in vacanza, stanno partendo col traghetto per la Sardegna, poi il bambino invece farà un'altra scelta. Esattamente. No, quindi no, la capacità, comunque, ti dicevo prima, il ritmo musicale delle battute è fondamentale, anche i tempi comici io li trovo geniali, e il cinismo anche è dosato ed è fuori dallo schema del cinema lettone, quello più... Quindi non ci sono motivi profondi, secondo te, che sei un conoscitore attento del cinema, è semplicemente un meccanismo perfetto, è riuscito Zalone a mettere insieme la macchina perfetta che assieme a un film comico, assieme, come abbiamo detto un'infinità di volte, è la tipica commedia italiana che molto più dei giornali, molto più degli organi di informazione, dà un quadro perfetto del paese? Sì, però c'è un limite, dico che l'abilità per piacere a tutti è giocare molto bene con gli stereotipi di superficie, ed è lì che poi però non affonda, non diventa mai la maschera umana tragica di un Sordi o del miglior Sordi. Hai ragione, tu sei un purista del cinema, però di fronte al successo estremo tu pensa ha seppellito tutti i Fellini, gli Zeffirelli, i Germi, cioè tutti seppelliti, non esiste più niente, non esiste più nessuno, c'è solo Zalone sopra tutti. Rita, buongiorno. Buongiorno. Spenga la radio, il viva voce, tutto. Sì, a conferma di quello che appunto ho appena sentito, le cose vanno proprio così. Io sono una che si spara tutte le pippe cinematografiche, un tentativo... Ma noi piacciono, guardi, i pipperoli intellettuali ci andiamo a nozze, quindi va bene. E Kubrick, non è fatto niente in questi anni, tutti i film impegnati, sono andata con le mie figlie perché c'avevano una gran voglia. di, come dire, come dicono loro, no? Andiamo a farci due risate, mamma che palle, e ho trovato un film che mi ha fatto ridere come non ridevo da tanti anni, un film che dice la verità su tutto, che prende in giro tutti e che veramente fa una fotografia di questo paese, di questa era, perfetta, perfetta, dove tutti siamo toccati nella maniera giusta, col giusto umorismo. Mi ha fatto veramente ridere e ha trovato il coraggio di dire tante piccole cose che noi, nascosti dietro quella finta intellettualità, non abbiamo il coraggio di dire. Grazie Rita. Galileo, Galileo. Pronto? Galileo, perché le è piaciuto? Pronto, mi sente? Sì, certo. Salve, buongiorno. Guardi, ci tenevo molto a dire la mia, è la prima volta che chiamo... Sì, ma non perda tempo, la dica subito, perché... Allora, secondo me il segreto di Zalone è quello che finalmente, per la prima volta, si è rivolto in Italia non a una delle minoranze che contano, che quindi possono essere i radical chic, i massoni da una parte, ma finalmente a tutte quelle persone che siamo tanti, che esistiamo per davvero, ma che non veniamo mai rappresentati da nessuno, perché non abbiamo nessun protettore, perché non abbiamo nessun Lions Club, perché non siamo abbastanza intellettuali, nonostante comunque anche noi abbiamo tutte quante le nostre lauree e tutti i nostri attestati, ma semplicemente per la prima volta viene rappresentato non l'uomo comune, ma quello stesso uomo comune che invece tutti quelli che fanno film, tutti quelli che dicono di far cultura, non sanno nemmeno che esiste. Ecco, lui ha trovato il minimo comune multiplo di tutti gli italiani. Mi scrive un ascoltatore: volete sdoganare la volgarità, ma come fate a essere così codini, così seminaristi, così schifosamente bigotti in un film di cui stiamo parlando, 360 gradi, fermarsi una battuta innocente che dice un bambino al papà: papà mi ha rotto il cazzo. Dice semplicemente per una ragione, per far capire al papà che lui non è quel mostro di secchionaggine che il padre si crede, è un ragazzino normale che dice anche le parolacce. Non vado pazzo per le parolacce, sono parolacce che vengono dette tutti i giorni. Non so se lei sa che quest'anno io e la mamma di Nicolò ci siamo separati. Sì, lo so, me l'ha detto sua moglie. E sono situazioni spiacevoli per i bambini che, lei sa, di solito ne risentono, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista del profitto scolastico. Ecco, io volevo chiederle... Cosa? Come cazzo è possibile che mio figlio invece no, non è risentito? Cioè, tutti i 10 mi ha preso il bambino, mi faccia capire. Non è contento? No, no, perché lei ha dipinto un mostro che mio figlio non è, le assicuro. Com'è? I genitori si separano... Ecco la spiegazione per cui il bambino è stato costretto a dire al padre quella parolaccia. Perché il padre che aveva promesso al bambino, avrebbe portato in vacanza, le prendeva tutti i 10... va dalla maestra e dice: come mai ha preso tutti i 10 mio figlio? Noi siamo separati, dovrebbe soffrire. No, perché è un ragazzino che si è impegnato, è un ragazzino molto serio. Giuseppe Sanson, sì, dimmi, vuole dire? È veramente alla Homer Simpson, se ci pensi, questa battuta è proprio, è chiaramente connotata da quello. Però quello che volevo dirti ancora su questo è che il finale così compiuto, così felice, in fondo contrasta anche un po' con i grandi star comic del passato, i vari Verdone, i vari Sordi, che appunto avevano sempre quella malinconia umana, che poi umana è, perché appunto è più sfumata. Invece qui l'happy end locale nello stereotipo è diventato comunista, maoista. Alla capisci qual è però il problema? Sì, questi galleggiavano su un'Italia crassa, soddisfatta, ebra della felicità, dell'economia che andava bene, e adesso la gente vuole uscire, non vuole uscire con altri cavoli per la testa, altre rogne per la testa, è già contenta che si è divertita, vuole credere in una favola. Ma rispetto, ti ricordi quando parlavamo del moccio amoroso, dell'amore moccioso di Moccia Muccino? Che fine ha fatto tutta sta gente? Il Sacro Gra, ci hanno riempito la testa col Sacro Gra, un film che uno scarnificamento gonadico più insistente e più implacabile non ci può essere stato, e hanno provato a portarlo sugli scudi. Com'è non c'ha più voce in capitolo questa classe di persone che determinava la genialità di un film o di un autore? Sì, però sei un po' feroce con tutto quanto, anche perché in fondo anche in Sacro Gra forse manca in alcuni momenti un po' anche la dimensione ironica, che io ritengo fondamentale che ci debba essere. Tu, vabbè, l'elevazione leggera è garantita, l'happy end garantisce comunque un risollevamento, un cinema come consolazione, ma su questo ci posso anche stare. Il punto è che non diventi ipertrofico, non divori tutto il resto. Ma questo ha divorato tutto, però è uno zombie divoratore di tutti gli altri film, tutti gli altri immaginari. Brunetta gli ha fatto un favore, tutto sommato, al moccio amoroso di Moccia Muccino, dicendo un film berlusconiano, così potranno dire che schifo, un film berlusconiano, prendiamo le distanze. Poi la gente ci va e si diverte lo stesso. Francesco. Dunque, io sono di Como e devo dire che non vado mai al cinema, cioè vedo due film all'anno, quindi per me Checco Zalone era assolutamente sconosciuto, non sapevo neanche che fosse venuto da diciamo dal cabaret. E quindi vado al punto. Ecco, a questo punto sono andato solo perché conosco questo Agostino Castiglione, che è il direttore della fotografia, sì. E per curiosità sono andato. Sì. Devo dire che io ho riso come sei divertito, non sei divertito. Anni. Bravo Francesco, perfetto. La sua sintesi mi affascina. Roberto, Roberto. Andate sì. Al punto, vada al punto anche lei, perché sennò abbiamo sì, poco tempo. Sì, no, mi perdoni, sono una preghiera, mi fa piacere parlare con lei, la seguo da una vita, la prego, non diventi anche lei maleducato con gli ascoltatori, perché ne abbiamo già altri. Io sono maleducato, le pare sia maleducato io. No, prima ha trattato un po' male, un po' sbrigativamente, la prego, non paga questo, lei è colto, raffinato, non lo faccio. Guardi, mai. Ma il mio metodo di trattare gli ascoltatori è sempre lo stesso da 30 anni, non è che mi è cambiato. Mi è sembrato di no ultimamente. Ma assolutamente. Sbaglio, sono, sono contentissimo se mi sbaglio. Sì, ma vada al punto adesso, ci abbiamo poco sì, tempo. Punto purtroppo. È questo, io contrariamente non è tratto Francesco... male, scusi, no, in un film di cui stiamo parlando mi fa la battuta da sacrestano, mettere in bocca un bambino papà testa di cazzo, ma dove vive questa persona? Però forse no, ma no, non ci possiamo fermare. No, non comunque, ci possiamo fermare. Questo. Non posso far passare, Francesco... non posso far passare una lettura così codina dalla realtà. Non è proprio nel mio stile, non è la parola, io non sono affascinato dalle parolacce, non è che le dico per piacere di dirle, ma se uno coglie però questo aspetto. Per chi vedeva il film e io, vabbè, a parte Francesco, diversamente da Francesco, lo dirò, ho visto Tarkovsky, Buñuel, eccetera, sì. Eccetera, non è questo. Io sono andato con due amici, entrambi con figli piccoli di 8-10 anni, tutti e tre separati, quindi diciamo una situazione che in questo, se si vuole, si identificava nel film. Totalmente, ma, certo. Ma non è questo, cioè io penso non sia un problema di identificazione, semplicemente veramente è triste dirlo, ma mi ricorda quello che ha telefonato Radio 24, qui la gente vuole ridere, siamo andati e ci siamo divertiti, l'happy ending è stata una nota stonata anche per noi, in effetti non c'entrava nulla, forse era meglio finire diversamente, anche perché poi ti pone un problema col bambino, con la mamma separata, diceva chissà cosa pensa, no, ma a parte questo il punto forse è, ma perché lei mi permette, lei già, è già un ascoltatore di livello superiore rispetto alla media ascoltatori, lei nota lo stonare, ma gli altri è sconfelice, la maggior parte delle persone, lo spirito generale però di massa non è questo, cioè non è questo. Si è andati perché faceva ridere, non perché poi si esce consolati dall'happy ending, quello è una scelta della produzione di Zalone, va bene, può darsi che anche paghi in minima parte, perché nessuno ha parlato poi del finale, ma tutti ricordano le battute. Sì, non gli importa niente a nessuno, infatti. È quasi macchiettista quando si presentano lui e il figlio con la maglietta con Che Guevara. Diciamo, è un sovrappiù. Esiste una forte vena morale in questo film, moralistica. Lui evita di consumare il rapporto improprio con la radical chic vegana perché ricorda la moglie. C'è un episodio di Simpson uguale, Homer Simpson vince un soggiorno insieme alla sua collega più gnocca di tutto l'ufficio, capito? Sono da soli nell'albergo, nella città lontana, lei entra in sottoveste, lui sta per amarla, improvvisamente un ripensamento, chiama la moglie, telefona la moglie, fa venire la moglie. Esattamente la stessa cosa. Anna. Buongiorno, buongiorno. Ascolti, io ho visto questo film e ci sono andata, come dicevo, spinta dal fatto che vicino a casa mia c'è un cinema e vedevo queste folle oceaniche. E sono andata con un amico e forse ero l'unica che non ha riso, ma non mi ha fatto ridere per nulla, perché l'ho trovato, come dire, furbo e cialtronesco. Cos'è che nella vita la fa ridere, Anna? Guardi, io sono andata a vedere L'ultima ruota del carro. Perché io sono una che al cinema ci va più spesso. Ma nella vita, no, nella vita, lascia vedere, cioè, cos'è una cosa ma che la fa ridere? Ma nella vita mi fa ridere qualunque cosa che non abbia un fondo di furbesco, di come dire, sottovaluto gli altri, ti faccio vedere che io arrivo perché sono furbo. E questo mi ha fatto pensare a un Berlusconi che mi fa ridere, che fa ridere, no, mi fa ma ridere. Ma lei va già con un pensiero preconcetto. Se lei si siede un attimo, io riso 30 secondi a questo film, e le giuro, sono una persona che non ride mai. La sfida a trovare una mia foto con un sorriso, ghigno tutto al più, non rido mai. Non so cantare, non so ridere, c'ho alcune cose nella vita non farò mai. Eppure ho riso dopo 30 secondi. È una formula che, come ha definito Sanson, è definibile in una possibile tecnica perfetta, di cui fa parte anche la furbizia, e in un clima generale che ha trovato persone che altro non volevano che uno che li facesse ridere senza pensare. A domani.